Ed eccoci a visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì. E per saperne di più, la scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming sul sito della radio, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Il primo collegamento di quest'oggi riguarda un festival storico per questa città. Ne parliamo con Alberto Ravaglioli, che ne è direttore di questa 35esima edizione del Fanta Festival a Roma dal 22 al 29 giugno. Alberto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, è la 35esima edizione del festival più vecchio, più blasonato fra quelli che si fanno a Roma, fra le tante attività legate al cinema che si fanno a Roma. 35 anni sono parecchi, ma anche 35 anni di grandi soddisfazioni, perché ci sono persone veramente che ci seguono da quando erano bambini, adesso sono diventati decisamente adulti. E il pubblico è l'unica cosa che non manca al Fanta Festival, mancano tante altre cose, ma non certo il pubblico, non l'entusiasmo. Senti, le opere che presenterete quest'anno quante sono? Tra lunghi e corti sono oltre 100 film. Sì. Da parecchi anni il Fantafestia si è dedicato in particolare al cinema dei giovani autori italiani e ai cortometraggi. Cortometraggi che ovviamente sono una delle forme di cinema più seguite dai giovani, perché è possibile realizzare un film senza grandi spese e farlo girare per tutti i festival, che di solito sono molto generosi nell'ospitalità. Ne abbiamo tanti, forse quest'anno meno di italiani per i lungometraggi, ma in compenso abbiamo dei film stranieri molto interessanti, molto di produzioni decisamente importanti, a cominciare dal remake di Poltergeist che presenteremo la serata di premiazione lunedì 29 al Barberini. È il remake del film che terrorizzò il pubblico una ventina d'anni fa, questi eventi misteriosi di paranormali che avvengono in una casa terrorizzando la famiglia che ha pensato bene di trasferirsi. Ecco, proprio a questo proposito, Alberto, volevo chiederti come stanno cambiando nel tempo le paure, quali sono i temi oggi più ricorrenti nell'horror internazionale? Sai, più che una questione filosofica è una questione economica anche lì, perché ci sono delle tematiche che è estremamente costoso portare sullo schermo, anche perché la gente non si accontenta più di quegli effetti speciali caserecci ai quali ci aveva abituato il cinema italiano, il cinema gotico italiano degli anni 60, quando Mario Bava, che è stato il più grande regista in questo campo e veniva dagli effetti speciali, si vantava che con 4 kg di trippa riusciva a terrorizzare la gente. Adesso ci vuole ben altro, per cui sono più, vedi che hanno avuto un gran successo i film legati al paranormale, con una camera fissa che una webcam che riprende una stanza nella quale si muove una porta, scricchiola un'altra cosa, sa? Sì. Però riuscendo a creare l'atmosfera non c'è bisogno dei grandi effetti. Anzi, personalmente preferisco un film di questo genere piuttosto che i film cacciaroni ai quali ci hanno abituato da una ventina d'anni a questa parte gli americani, con effetti speciali di straordinaria portata, ma che alla fine ti stufano perché ci fai l'abitudine, li dai per scontati, mentre invece un'atmosfera che riesce a tenerti inchiodata alla poltrona e alla fine ti rendi conto di essere tutto sudato per la paura senza aver visto niente, insomma, è veramente un risultato notevole, e che ti fa stimare anche chi riesce con così poco a trasmetterti delle sensazioni abbastanza forti. Sì. Senti, Alberto, ci ricordi allora intanto i riferimenti internet per la programmazione e poi i luoghi del festival? il sito internet dedicato è www.fanta-festival.it, sì, dove si può trovare per quanto riguarda quest'anno il programma dettagliato, e mano a mano mettiamo gli articoli dedicati agli ospiti. Ricordo l'ospite d'onore del quale quest'anno siamo molto fieri, che è Barbara Steele, che i meno giovani ricorderanno in tutta una stagione degli anni 60 dell'horror italiano, e poi in altri grandi film di grandi registi italiani. Aveva un bel ruolo nell'Otto e mezzo di Fellini, aveva un ruolo straordinario in quello straordinario film di Mario Monicelli che è L'armata Brancheleone. Lei era la sadica principessa. E Barbara Steele sarà da noi da martedì alla serata di premiazione, quando consegnerà i film e i premi ai vincitori. E comunque sul sito qualsiasi informazione riguardo a questo Fanta Festival e ai Fanta Festival del passato, perché abbiamo un ricchissimo archivio con le immagini dal 1981 in poi di tutti i grandi ospiti che sono venuti e con i quali siamo stati insieme. Bene. E poi voglio ricordare che Fanta Festival comunque prosegue nel corso dell'estate con una programmazione all'arena che viene creata quest'anno alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma a San Pietro in Vincoli, a via Cavour. C'è un'arena alla quale noi forniremo una programmazione di una settimana dei più bei film passati a Fantafestival in questi ultimissimi anni, vincitori. Bene. Poi a settembre, alla riapertura della Sala Trevi, ci sarà una personale completissima di Barbara Steele, per cui gli appuntamenti proseguono. Non mancano. Alberto, io ti ringrazio, in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, e vediamoci al Barberini tutti quanti dal 22 al 29 di giugno. A presto, ciao. A presto, arrivederci, ciao. Alberto Ravaglioli, direttore della 35esima edizione del Fanta Festival. E il nostro abituale collegamento con Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso per parlare delle novità del mese di questa piattaforma. Paco, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e tutti. Raccontaci un po' di cosa vi siete forniti questo mese. Sì, sono arrivati un bel po' di progetti di lavoro interessanti che hanno arricchito ulteriormente il catalogo. Io partirei sicuramente segnalandovi un nuovo film, una nuova prima visione che è arrivata sul sito, molto importante per noi, ci tenevamo molto ad averla, ed è il documentario 8 punti del pluripremiato regista Danilo Monte, direttamente dal loro gruppo di Torino, ed è appunto, per chi non l'avesse già visto o chi non avesse sentito parlare, torniamo al G8 di Genova del 2001. È un percorso a ritroso, molto, quindi è un lavoro molto autoriale, molto anche introspettivo, un percorso a ritroso del regista assieme a Timothy Ormezzano, che è un giornalista che aveva partecipato anche egli al G8 di Genova, ed è il loro ritorno a Genova 11 anni dopo sul percorso di quello che fu la loro esperienza del G8 del 2001. È un film non solo molto bello e molto importante secondo noi, ma anche qualitativamente a un livello molto elevato, per cui per noi è stato veramente importante iniziare ad aprire una collaborazione anche con questo autore e con la sua casa di produzione. Bene. Poi abbiamo anche molte novità, per fortuna, sul fronte di quello che invece è la parte di archivio storico. Ne spiccano due su tutte. La prima è la pubblicazione della versione restaurata di Ampollino Rap, fornitaci dal giornalista Bernardo Iovene, con il quale collaboriamo da diversi mesi. E per chi non lo conoscesse, è questo prezioso documento video di circa 2 ore che racconta tutta la storia e l'esperienza del Festival Ampollino, Ampollino Rap, che fecero nel 94 sui monti, vicino ai Monti della Sila. E vi consiglio di andare a darci un'occhiata, non solo perché appunto è un documento molto, molto interessante e assolutamente introvabile fin quando non l'abbiamo, insomma, trasmesso sul free streaming sul web, ma potrete vedere anche tutta quella scena hip hop post dei primi anni 90 agli albori, che si presentava e che iniziava in qualche maniera a strutturarsi. Quindi non noterete tutta una serie di musicisti e cantanti che oggi siamo abituati a conoscere molto bene all'inizio del loro percorso artistico. Bene. E quindi, insomma, ecco, è un lavoro che abbiamo, ci tenevamo a non solo a restaurare, ma soprattutto a mettere nella sezione gratuita, quella dell'archivio, in maniera tale che fosse accessibile a tutti quanti. Sì. E dopodiché abbiamo avuto anche un'altra collaborazione molto importante con Marte Officine Multimediali, che hanno deciso di legarsi al nostro percorso sempre per quanto riguarda la sezione dell'archivio storico, quindi quella che, per chi non lo sapesse, è interamente d'accesso libero e gratuito. Ci hanno fornito 9 documentari, tutti sulla tematica del lavoro di ricerca dei movimenti sociali in Italia dagli anni 70 a oggi, per cui si passa dai movimenti operai ai movimenti studenteschi alle prime lotte anche dei movimenti migranti degli anni 90, e loro si occupano principalmente proprio di documentazione in senso storiografico, per cui per noi era molto molto importante e stimolante riuscire a trovare in qualche maniera un filo conduttore con loro, e non a caso appunto abbiamo iniziato questa collaborazione in pompa magna non con un documentario ma con addirittura 9 lungometraggi della loro produzione degli ultimi 15 anni, che sono ora disponibili e organizzati all'interno dell'archivio multimediale. Bene, bene. Senti Paco, ci dai a questo punto in chiusura tutti i riferimenti per venirvi a trovare? Certamente. Distribuzione al Basso è in primis un portale web, distribuzionealbasso.com, all'interno del quale potrete trovare non solo appunto la sezione documentari e film, quella da cui è nato tutto il progetto, ovvero sostenere e diffondere opere indipendenti di registi indipendenti o emergenti, ma c'è appunto anche l'altra sezione di cui parlavamo ora, che è quella invece dell'archivio storico digitale, che è nata da pochi mesi rispetto al resto della vita del sito, dove mano a mano andiamo a recuperare filmati di movimento di varia natura e di varia epoca, li restauriamo e li regaliamo in qualche maniera, li mettiamo a libera fruizione degli utenti sul web. Quindi quando insomma volete anche fare un lavoro di ricerca in merito, potete appunto andare su distribuzionealbasso.com e navigare comodamente le sezioni del sito organizzate per aree tematiche, tag e quant'altro. Un prezioso strumento di cui ti ringrazio Paco, a risentirci presto. Grazie a voi, alla prossima. Sì, un bacio, ciao. A presto, ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Ritroviamo Vieri Razzini di Teodora Film per parlare della distribuzione del film Diamante Nero in uscita in sala oggi giovedì 18 giugno. Vieri, ben ritrovato. Ben trovati a voi. Purtroppo ho paura che questo telefono non sia vabbè, se sentite voi dei disturbi mi avvertite. Ti avvertiamo. Allora, diamo delle indicazioni di trama rispetto al film, Vieri. Oddio, trama è una parola un po' troppo tradizionale per un film di questo genere, però sì, c'è anche una trama, nel senso che è il percorso di una ragazza nera delle banlieue parigine, è una specie di romanzo di formazione, se vuoi, molto a modo suo, e passa attraverso le forche caudine della famiglia, della situazione obiettiva in quei luoghi, dell'obbligo ad avere un tipo di istruzione invece che quella che avrebbe voluto scegliere lei, eccetera, e però trova anche l'amicizia con le compagne coetanee e trova soprattutto il modo di non sottostare, di fare delle scelte che sono sempre delle scelte provvisorie ma che comunque la portano a una crescita. Il tutto però, perché raccontato così purtroppo sembra un po' il solito cosa sociologica, così. Invece il film sfugge completamente, è un film esistenziale, come era Tomboy, che era il film precedente che avevamo portato di Céline Chama. Vieri, un paio di considerazioni. Intanto un sessismo da parte maschile piuttosto evidente. Naturalmente. E dall'altra una sorta di, chiamiamola tra virgolette, emancipazione, però su modelli completamente maschili, come quello del gangsterismo, delle bande giovanili che con la violenza si affermano. Beh, insomma, che per il in quel momento sembra anche l'unica via, cioè il battere ferro contro ferro, come dire. Sì, però quello che mi sembra molto bello del film è che è stato molto apprezzato proprio anche dai critici in questi giorni, oggi soprattutto, sono uscite delle critiche entusiastiche, è proprio il fatto che il film si tiene lontano dalla sociologia, dalla critica sociologica, dalla critica direttamente politica. È un film, se vuoi, politico, ma in modo profondo, non sottolineato, non esteriore. È profondamente politico, racconta proprio un percorso esistenziale, con un finale aperto, perché appunto c'è una sorta di provvisorietà, diciamo, nel cammino di questa ragazza e anche delle altre. Quindi il bullismo, quindi le altre manifestazioni sono dei momenti. Si approda anche allo spaccio di droga, ma è chiaro che sono dei momenti. Senti, Vieri, rispetto al cast femminile piuttosto giovane, ecco, hai notizie in proposito? Di che genere? Faranno altri film, eccetera. Come è stata la scelta, insomma? La scelta, guarda, Céline ha visto 300 ragazze. Per darti un'idea, ha tirato fuori queste quattro, diciamo. Ha visto 300 ragazze e ha raccontato anche a me che è stata un'esperienza straordinariamente interessante, perché ovviamente è stato un modo per avvicinarsi a questo mondo al quale altrimenti è difficile avvicinarsi, diciamo, no? Attraverso il lavoro, attraverso una possibilità di lavoro, eccetera, c'è stata una conoscenza diretta di tutte queste creature, donne. A questo proposito, Vieri, visto che hai avuto anche modo di parlarci con Céline, la realtà delle banlieue oggi, cosa ti è parso dalle sue affermazioni? Abbiamo parlato molto poco di questa cosa, appunto, direttamente politica, diciamo, quelle sono poi le cose che si leggono sui giornali, di cui abbiamo notizie, così, oppure attraverso quei film cosiddetti impegnati, che in realtà poi spesso sono edificanti, un po' delle lagne. Ecco. Diamante Nero è il contrario della lagna, un film vitale, vigoroso, molto energico, molto diverso, ecco, veramente diverso. E sulla figura di Céline dal punto di vista registico? Ma sai, io l'ho trovata da subito un grandissimo talento, anche qui si vede, cioè proprio ci sono delle persone che sono registi o registe nate, che respirano cinema, non so come dire, è molto difficile, non sono criteri critici, sono... Ci sono magari degli ottimi registi, ma dei quali non diresti la stessa cosa, E invece lei è proprio una che si esprime naturalmente attraverso questo mezzo. E quindi anche il suo primo film, che poi non si è visto, che si chiamava La Naissance de Pieuvre, si vedeva subito che è una che ha questo dono naturale, diciamo, ecco, come uno è scrittore, come uno è poeta e così, un altro, capisci? Senti, Vieri, da oggi nelle sale, e in quante sale? Sono una 25 copie, 28. 28 copie. Beh, sai, all'inizio dell'estate, insomma, speriamo bene. Ti dico, se ne sta parlando molto, mi pare, anche sul web, e oggi sono uscite delle critiche entusiastiche anche nei giorni passati, quindi spero, insomma, un po' avrà un po' di diffusione il film. Staremo a vedere. Bene. Bene. Vieri, io ti abbraccio, a sentirci presto. Grazie mille. Ciao. A presto. Pieri Razzini di Teodora Film sulla distribuzione del film Diamante Nero in uscita in sala oggi giovedì 18 giugno. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15 il cinema. Ben ritrovato Federico Pontigia, ci sei? Ci sono, buongiorno, bentrovati a voi. Sono contento di averti qui con noi perché il film di cui parleremo tra poco, ho dedicato anche la copertina di questa settimana con una foto del protagonista reale di questa vicenda immerso tra i faldoni delle sue inchieste. Stiamo parlando della Regola del Gioco, anche questo in uscita in sala oggi giovedì 18 giugno. Come dicevamo ieri, Federico, sembrano però non crederci troppo, sembra come fu allora quando venne un po' sommersa la relazione della CIA praticamente confermava le accuse di quel giornalista che aveva scoperto questi segreti, allora furono offuscate della vicenda Clinton, la fellazio presidenziale, esatto. E quindi anche oggi sembra che, insomma, che ci sia altro di importante in sala, mentre che secondo me, ma da quanto ho capito anche secondo te, si tratta di un film importante. È un film assolutamente importante, un film da vedere, non ho ancora visto in quante copie è uscito, però è un film che merita perché non è tra l'altro il solito film sul giornalismo, cioè il giornalismo come guardiano del potere che arriva a sistemare le cose che la politica ha, come dire, manovrato a suo piacimento, perché qua in realtà i cattivi, chiamiamoli così, sono gli stessi giornalisti, nel senso che i grandi giornali, i giornaloni dei poteri forti, come dice un sito in Italia, ovvero Los Angeles Times, Wall Street Journal, Washington Post, furono proprio loro a dare contro a Gary Webb, che appunto aveva parlato, aveva scritto di questa oscura alleanza tra i Contras e la CIA. Per farla breve, si passavano droga in cambio di armi, cioè armi e Contras, per pagare queste armi la droga, la cocaina prima e il crack poi arrivava negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, nel distretto di South Central. Di questo parla il film. Il film parla soprattutto di un uomo da solo che prima indaga, investiga e scrive da solo e poi verrà lasciato solo dai suoi stessi colleghi del giornale per cui scriveva e scrisse questo pezzo, un'oscura alleanza, che sia all'interno del giornale sia soprattutto dal di fuori del giornale, da questi altri quotidiani di grosso calibro, fu smontato pezzo per pezzo. E non svegliamo, se sei d'accordo, come finisce la storia, però anche la storia, il titolo da questo punto di vista è abbastanza ambiguo, ma dice bene di quello che vedremo. È una storia ancora, come dire, ancora forse tutta da riscrivere e comunque quantomeno da diffondere. Sì, questo sì. Fa la Regola del Gioco e lo fa con due eccellenze: Michael Cuesta, il regista, che è uno che si è andato a scrutare un po' i titoli di testa e di coda delle serie, da Homeland a Six Feet Under, aveva fatto lui il pilot di Dexter, e uno che con le serie ci va a nozze, i film che fa sono sempre indipendenti. Lai, il suo esordio, aveva preso tanti premi in America, proprio nei festival che prima nel cinema indipendente, e poi soprattutto il protagonista è un attore che ben conosciamo, Jeremy Renner, e nei panni di Gary Webb credo dia, per come lo conosco, per quel che conosco io di lui, la prova migliore della sua carriera, anche più di quella di Art Locker, anche perché lei recitava in uno scafando, in uno sminatore. Ricordiamo di Art Locker il premio, il film premio Oscar di Catherine Bigelow. Mm-hmm. Riesce con questa Regola del Gioco ad appassionarci, a rendere sempre credibile il giornalista che interpreta, e soprattutto la sua lotta, che è una lotta solitaria contro tutti. Ebbene, in realtà non è così, perché lo vedrete, io spero che lo vediate questo film qua, noi siamo sempre con lui, nella gioia e nel dolore, come si dice, si direbbe parlando di un rapporto coniugale, viene proprio da sposarlo empaticamente, emotivamente, questo Gary Webb di Jeremy Renner. Sì, purtroppo, sì, dicevi tu bene all'inizio che è arrivata l'estate anche in sala, purtroppo in Italia l'estate cinematografica significa soprattutto siccità, o anche quando c'è il prodotto, come in questo caso, non sembra da parte del distributore, che BIM, esserci come dire abbastanza fiducia nel film che stanno, sì, proponendo. Esatto. Ecco, come dire, aiutiamoli a ricrederci, andiamo a vederlo. Io spero che almeno nei capi zona il film arrivi. Vale davvero la pena, anche perché di film sul quinto potere, no? Capace di quarto, quinto potere, capace di raddrizzare la democrazia americana, ne abbiamo visti, qua c'è un passo ulteriore, cioè si critica anche aspramente, ma senza urlare, anche il mondo del giornalismo. Un pesce piccolo era Gary Webb, troppo scomodo sia per i poteri forti dello Stato americano, sia per gli altri giornali. Sì, è sì, una storia triste, ma è anche una storia di, come dire, di fiducia nelle proprie capacità e fiducia nella verità. Sì. Andare a vederlo è il modo migliore per dargli ragione. Sì, anche perché a me ha impressionato soprattutto da un aspetto. Si tratta di una storia portata alla luce da un piccolo giornalista di cronaca locale e sì, tocca a due. Ricordiamo il giornale del Mercury News, sì, sì, in cui era di San José, in cui era arrivato con portandosi appresso la moglie e i figli. Ci sono, se andate su Google, ci sono anche delle immagini toccanti sue con la sua famiglia. Appunto, era un piccolo giornale che riuscì attraverso Webb sia prima a guadagnare a lui e ad altri giornalisti in premio Pulitzer, sia poi con lui in prima persona ad avere un giornalista dell'anno, no? Che sì, era proprio lui. Sì, sì, ma sì, non sì, svegliamo troppo adesso. Che dici? Sì, sì, come no, hai ragione. E poi a partire cosa da ti ha impressionato? Stavo dicendo, rispetto a questa, ha scoperto quasi casualmente, insomma, rispetto a una, sì, un'altra vicenda che stava seguendo, uno scandalo, un segreto che riunisce due che furono poi, a partire dagli anni Ottanta, due dei capisaldi della politica americana. Da una parte il pericolo rosso, quindi la rivoluzione alle porte sandinista, che rappresentava il pericolo numero uno in quel momento. Dall'altro, sì, e questa si è sviluppata anche in seguito, la lotta alla droga, una lotta piuttosto ambigua e doppio giochista, e questo scandalo le mette insieme tutte e due, perché le mette insieme, sì, trova il legame come dicevamo prima, e poi però, e questo dice molto di un'altra responsabilità dei media, che di fronte a queste due come dire guerre riuscì e con un legame proprio istituito, documentato, no, nelle inchieste di Webb, riuscì non di meno a fregarsene, perché mediaticamente, è vero, ci sarebbe stato l'impeachment e tutto, ma mediaticamente l'affare Clinton-Lewinsky mise tutto questo in secondo piano. Sì, sì, sì, sì, sì. Questo è proprio uno schiaffo alla democrazia americana, uno schiaffo che si sono dati loro stessi, perché ci furono commissioni d'inchiesta, tra l'altro, a parlare proprio di questo legame tra lo spaccio di cocaina prima e poi di crack a South Central, e i legami della CIA con i Contras. Fu lo stesso John Kerry, sì, sì, sì, che è un volto noto, no, della, sì, politica anche attuale americana. Nonostante tutto questo, per ricavare questa storia c'è stato bisogno di un film tratto da Kill the Messenger, il libro omonimo, e anche da altri studi sull'argomento, per portarla al grande pubblico, perché laddove avvenne il fattaccio, no, l'opinione pubblica veicolata, indirizzata dai mass media, era tutta sull'affare, sullo scandalo del Lewinsky. Esatto. E per quanto riguarda la politica rispetto mi sembra ricalcare dei cicli che tornano, perché come fu per il proibizionismo, la CIA lasciò, anzi per certi versi alimentò quello che fu lo spaccio, la diffusione delle droghe soprattutto nelle periferie delle metropoli americane, perché comunque era uno strumento di controllo. I tossicodipendenti erano per lo più latini e afroamericani. Però poi South Central non a caso è stato scelto proprio ad hoc, esatto, spazio, esatto. In quella zona. Però poi le spese rispetto ai danni causati dalla droga e le spese per la sicurezza, come fu allora per il proibizionismo, si rivelano un boomerang per quanto riguarda insomma la politica nazionale. Beh, e tra l'altro l'accusa anche di Kerry, no? Perché la CIA, forse ben ricordo, fu impedito per ben due volte con degli atti legislativi ad hoc di prestare aiuto ai Contras, di interferire appunto in chiave militare, dandogli sostegno e militare e finanziario, sì, e sì, tutto, sì. Tutto questo ci dice come veramente i poteri forti agivano, e nonostante questo, nonostante anche gli ostacoli messi proprio in sede legislativa, continuarono a fare questo. Dall'altra parte, viceversa, ed era il rovescio della medaglia, ma una medaglia ugualmente arrugginita su entrambi i lati, era il fatto che si veniva meno a uno dei primi principi, no? A uno dei primi diritti che uno Stato deve avere nei confronti dei propri cittadini, ovvero di garantirne la salute. Invece c'era uno spaccio proprio anche, come dire, con connotazioni, agito con connotazioni razziali per normalizzare, nemmeno normalizzare, no? Per sedare, sì, letteralmente, sì, sì. Possibili ribellioni, perché ricordiamo cos'era in quell'epoca South Central, tra, sì, parentesi. Sì, sì. Beh, direi andate a vedere la regola del gioco. E Federico, io ti ringrazio, un abbraccio. Grazie e a voi. A risentirci presto. Ciao Fede, ciao. Federico Pontigia sul film La regola del gioco, in uscita in sala oggi, giovedì 18 giugno. Ritroviamo Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali per parlare con lui di un documentario, Hell and Back Again, che sarà su Sky TG24 oggi 18 giugno. Dario, ben ritrovato. Sì, ciao Federico e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, innanzitutto diciamo di stasera 18 giugno alle ore 21:10, quindi in prima serata, su Sky TG24 in chiaro. Sul canale 27 del digitale terrestre, quindi visibile da tutti, non solo da chi ha l'abbonamento Sky. Bene. Mi sembra un'informazione fondamentale. Sì. Senti, per quanto riguarda il tema, un tema che ricorre abbastanza tra film e documentari, qui è l'Afghanistan, in che termini, Dario? Allora, sì, diciamo che il tema di questo documentario insomma è molto simile a, come dire, al tema trattato in The Hurt Locker della Bigelow e in American Sniper di Clint Eastwood, che probabilmente molti avranno visto, insomma, entrambi i film. Cioè parla del, più che essere un film sull'Afghanistan, direi che è un film sulla guerra, su chi combatte e sul trauma che subisce combattendo, andando in guerra. Diciamo, l'Afghanistan è uno sfondo, ma in realtà potrebbe essere l'Iraq, potrebbe essere qualunque altro luogo in qualche modo, insomma, quello il tema, diciamo, su cui poi insomma si sviluppa il documentario, è l'incapacità di questo giovane sergente dei Marines a reinserirsi nella sua vita normale. La storia brevemente è questa: questo giovane sergente insomma viene mandato nel 2009 in una missione piuttosto, diciamo, complessa, pericolosa in Afghanistan, guida una compagnia per circa 6 mesi, premessa, viene in questa compagnia, c'è a seguito un fotografo, un fotogiornalista che si chiama Dan Fung Dennis, che è un corrispondente freelance che ha lavorato per tantissime testate internazionali importantissime, la New York Times, Washington Post, Figaro, eccetera, e lui segue questa compagnia filmando, perché, come dire, con un progetto, insomma, filmando con la sua piccola, diciamo, macchina fotografica digitale, e segue, insomma, fa delle riprese. A un certo punto il sergente Harris viene ferito e il fotoreporter ha un'idea straordinaria, cioè, come dire, di seguirlo anche nel suo rientro a casa, e così fa. Quindi, come dire, il film si divide sostanzialmente in due parti: la prima inizia appunto sul fronte afghano, poi si passa, diciamo, in North Carolina, dove vive questo giovane Marines, e lì lui ritorna a casa ferito abbastanza gravemente, non in pericolo di vita, ma insomma con una riabilitazione estremamente faticosa, estremamente dolorosa. Deve prendere, diciamo, dei narcotici, deve fare delle cure riabilitative che lo fanno veramente soffrire molto. Ma al di là, diciamo, di quella che è la sua sofferenza fisica, quello che emerge poi fortemente nel suo rientro, diciamo, nella sua vita normale, con la sua moglie vicino, nella vita di tutti i giorni, e proprio l'incapacità di vivere una vita normale, cioè, dopo essere stati al fronte, dopo aver visto, diciamo, quello che lui ha visto, c'è questo, una cosa che peraltro viene anche abbastanza ormai studiata, cioè questo trauma, insomma, no? da esposizione alla guerra, insomma, che lo rende sostanzialmente un disadattato, e non tanto disadattato perché non riesce a camminare, quanto perché non riesce più a sopportare la sua esistenza, tra virgolette, normale. Senti Dario, quali sono stati gli elementi che ti hanno convinto nella scelta di questo lavoro? E dunque, questo è un film in qualche modo, come dire, un po' universale, un po' senza tempo, cioè, infatti questo è un film che è stato presentato, ha vinto un premio della giuria al Sundance Film Festival nel 2011, quindi non è neanche un film nuovissimo, insomma. Io, vabbè, l'ho preso già da un po', insomma, sono riuscito, diciamo, a farlo trasmettere a SkyTG24 solo ora, però risulta di estrema attualità, perché ed è un film che può risultare attuale, come dire, nel tempo, perché quello che tratta, insomma, è in qualche modo qualcosa che rientra nella grande riflessione appunto sulla guerra, sull'orrore, insomma, che si prova a essere esposti, diciamo, a queste situazioni estreme. Quindi il convincimento era un po', insomma, come dire, quello di prendere un documentario che non era di cronaca, ecco, che non era, diciamo, current affair, ma era proprio, come dire, una cosa che nel tempo avrebbe potuto dare, sì, insomma, sì, comunque, sì. Senti Dario, ci dai nuovamente gli estremi per vederlo e poi ci sentiremo anche per le prossime novità? Molto volentieri. Dunque, allora, gli estremi sono stasera, SkyTG24, ora 21:10, in chiaro, canale 27 del digitale terrestre. Un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, a ciao, voi. Dario. Ciao. Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali sul documentario Hell and Back Again su SkyTG24, oggi giovedì 18 giugno. Pedro Armocida, direttore della 50+1 Mostra Internazionale del Nuovo Cinema Pesaro Film Festival dal 20 al 27 giugno. Pedro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Se non sbaglio, noi ci eravamo sentiti una volta forse su queste frequenze, ma tanto tempo fa, quindi è passato piuttosto parecchio tempo. Senti, sì. Pedro, allora cominciamo da questo 50+1. Sì, diciamo, quest'anno è stato un anno un po' di cambiamenti, di passaggio di direzioni artistiche per motivi un po' complessi che adesso non stiamo a ripetere. Comunque, diciamo, il professore con cui mi sono laureato in cinema, Giovanni Spagnoletti, che appunto voi avete ospitato tante volte, non è più il direttore, sono stato chiamato io a dirigere il festival che ho organizzato con lui da 15 anni. In quest'ottica, naturalmente, il discorso del 50+1 vuole segnare appunto un discorso di discontinuità, però comunque è un tentativo di declinare anche in maniera diversa questa formula del nuovo cinema, soprattutto per il futuro. Da questo 50 edizioni, 50 anni quest'anno, più una che è quella che l'edizione 51 che faremo tra poco. Senti Pedro, soprattutto per i più giovani all'ascolto, quali sono le caratteristiche, i punti qualificanti di uno storico festival come quello di Pesaro? Ma sicuramente è sempre la ricerca del nuovo cinema, che non ha più un'accezione storica legata alle nouvelle vague degli anni 60, per cui il festival è diventato uno dei più importanti in Italia e anche internazionalmente. Ripetere la parola sempre nuovo cinema un po' poi rischiava anche, ho visto, di apparire quasi vecchia come definizione. Quindi il tentativo è quello di aprire il festival il più possibile ai giovani, tra virgolette, nel senso di coinvolgere gli studenti, per esempio, delle scuole di cinema, delle università di cinema, che il festival ha sempre invitato, ma in maniera più responsabilizzante e propositiva, cioè per esempio con la giuria. Quest'anno l'unica giuria che sceglierà tra i 6 film in concorso sarà formata da studenti, coordinati poi da Francesca Neri, che ospitiamo anche per il nuovo film di Peter Marcias in anteprima al festival, che si chiama Nostra Quarantena, più tutta una serie anche di incontri dedicati proprio all'idea come si può fare un festival oggi dedicato al nuovo, con appunto una serie di persone, di programmatori, di critici, di fascia generazionale, diciamo sui 40 anni per intenderci, sì, che sono quelli che poi fanno i festival e li programmano, per capire appunto come si può andare avanti con un discorso di novità rispetto al cinema, perché non abbiamo la scienza infusa, non abbiamo, diciamo, delle formule da proporre, ci facciamo delle domande e cerchiamo delle risposte. Pedro, quante sono le opere che sarà possibile vedere quest'anno? Guarda, alla fine, cioè, purtroppo, nel senso, positivamente sono tantissime, nel senso, perché adesso chiaramente, se consideriamo anche i cortometraggi, che quest'anno c'è una finestra anche sui corti di animazione italiani, e tutta la programmazione, diciamo, siamo oltre 100 film, 120 sì, film, sì. Però comunque invece il palinsesto è molto preciso, perché noi programmiamo una sala, che è questa storica, che si chiama Teatro Sperimentale, al cui interno abbiamo aperto anche un'altra saletta che dedichiamo a Pasolini, omaggiato quest'anno non per motivi del quarantennale della morte, ma perché proprio 50 anni fa Pasolini venne a Pesaro nei primi 3 anni e pronunciò la famosa relazione sul cinema di poesia, che appunto diede una spinta molto forte anche al festival, e ci sembrava giusto ricordare il Pasolini pesarese più che il Pasolini ucciso 40 anni fa. Mm-hmm. Quindi, e quindi ogni giorno il palinsesto è molto semplice, perché si inizia il pomeriggio, prima si iniziava anche la mattina, mentre la mattina sarà dedicata agli incontri in un posto nuovo del centro d'arte visive che si chiama Pescheria. Dalle 3 allo sperimentale, nelle due sale, ci sono i film, e poi si va avanti la sera in piazza, che è la parte, diciamo, anche più popolare, più bella del festival, perché è la piazza principale di Pesaro, piena di gente a vedere film provenienti da tutto il mondo in originale con i sottotitoli. E poi a mezzanotte l'ultimo evento legato alle proiezioni appunto notturne fuori dagli schermi, realmente, perché viene proiettato su un muro di un cortile di un palazzo antico di Pesaro, si chiama Dopo Festival, 5 serate gestite da 5 curatori diversi che propongono film e immagini che hanno scelto. Bene. Pedro, in chiusura, ci dai riferimenti internet nuovamente per la programmazione? Sì, è tutto sul sito, che è www.pesarofilmfest.it. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Crepi, ciao Federico. Ciao. Pedro Armocida, direttore della 50 più 1 Mostra Internazionale del Nuovo Cinema Pesaro Film Festival dal 20 al 27 giugno. Ecco noi Giorgio Placereani per parlarci di sei film restaurati di Ozo Yasujiro in uscita in sala in Italia per la prima volta a partire dal 22 giugno a Milano, se non sbaglio. Giorgio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve. Allora, cominciamo con questa figura di cineasta che molti, anche dei grandi maestri del passato, hanno ritenuto fondamentale per la loro esperienza. Sì, tant'è vero che poi quando la rivista inglese Sight and Sound ha fatto un sondaggio fra i registi sul film più bello della storia del cinema, ha vinto un film di Ozu, Viaggio a Tokyo, presente nella rassegna naturalmente. Sì, sì, sì, sì. Senti, questi sei film, intanto come è partita la scelta di questi titoli? Ma a un certo punto la Shochiku, la casa produttrice giapponese che produceva praticamente tutti i film di Ozu, ha deciso di fare dei restauri. Ha restaurato questi film e la Tucker Film di Udine Pordenone, questa casa distributrice che distribuisce molti film orientali, ha pensato bene di farli conoscere o rivedere su grande schermo anche al pubblico italiano. Oh, che allasso di tempo ricoprono questi sei titoli? Dunque, il primo film è in ordine cronologico e è del 1949. L'ultimo, che sarebbe anche l'ultimo film di Ozu, è del 62 e rappresentano il suo periodo finale, da molti considerato il periodo dei suoi capolavori assoluti. Sì, sì, sì, sì. Il che è anche insomma singolare, perché per molti molti cineasti il meglio viene sempre all'inizio o a metà. Sì, sì, è vero, però ci sono anche i grandi vecchi, sì, come è vero. Kurosawa per esempio, sì, sì, o sì, come De Oliveira, che sì, purtroppo è morto vecchissimo di recente, oltre i 100 anni. Sì, sì, sì. Senti Giorgio, allora, visto che ci sei tu a parlarne, quali sono a tuo modo di vedere le cose, gli aspetti più belli della cinematografia di Ozu? Ma bisognerebbe dire che Ozu ha fondamentalmente declinato un tema, che è quello del passare del tempo, il flusso del tempo, cioè racconta di famiglie in cui le cose cambiano e inevitabilmente bisogna rassegnarsi al cambiamento con una specie di malinconia, quella che in giapponese viene chiamata il mono no aware, cioè il sentimento malinconico del tempo che passa e del fatto che le cose non restano come sono. Però ci tengo a dire che Ozu rappresenta questo cambiamento e anche queste storie a volte drammatiche con un'estrema leggerezza e con un filo di umorismo che attraversa i suoi film. Sei anche autore di un libro che di Ozu in qualche modo si occupa, in che termini? Intendi Autunno e Primavera, che è pubblicato dalla Tucker Film, sì, per accompagnare la rassegna. E semplicemente questo libro vuole essere fondamentalmente una guida al cinema di Ozu, qualcosa di molto semplice e di servizio, però contiene alcune riflessioni e un piccolo dizionarietto dei suoi temi principali e dei suoi attori, almeno 15 dei suoi attori principali, perché Ozu, come altri grandi del cinema, amava lavorare sempre con le stesse persone. Mm-hmm. E anzi Ozu fa ritornare in un certo senso i suoi personaggi, con un nome cambiato ma molto riconoscibili, da film a film. Sì, sì, se sì, c'è tempo per fare un esempio, c'è un attore, Kita Ryuji, che mentre in uno dei film della rassegna vede fallire il suo sogno d'amore con una vecchia vedova, e un altro dei film viene ritrovato sposato con una donna più giovane di lui, come se fosse una sorta di risarcimento. Senti Giorgio, si tratta di un'uscita nazionale a tutti gli effetti, in diverse tappe, in diverse anche città importanti italiane. Come è stata studiata questa formula distributiva? Beh, noi come Tucker Film abbiamo più o meno elaborato il pacchetto con una serie di materiali, il libro, delle schede di visione e così via. E poi le varie città hanno scelto in che modo distribuire i film dal punto di vista materiale. Possono essere dati uno alla settimana, uno al mese, insomma c'è un'estrema libertà nella scelta della gestione di questo pacchetto di 6 capolavori. Bene, bene. E tutte le informazioni credo si trovino sul sito della Tucker Film, giusto? Assolutamente sì. Bene, bene. Allora Giorgio, io ti ringrazio. Ricordiamo, dal 22 giugno 6 film restaurati di Ozu Yasujiro in uscita in sala in Italia per la prima volta. A risentirci presto. Ah, grazie. Ciao Giorgio. Ciao. Lo scrittore Giorgio Placereani per parlarci appunto dei 6 film di Ozu. In collegamento con Francesco Melzi Derril di Good Films per parlare della distribuzione di Teneramente Folle in uscita in sala oggi giovedì 18 giugno. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, per chi ci ascolta, diamo qualche informazione sul tipo di storia che si andrà a vedere. Sì, Teneramente Folle è la storia vera, perché è la storia fondamentalmente della famiglia della regista Maya Forbes. È la storia di una coppia mista del New England negli Stati Uniti, a Boston, composta da Mark Ruffalo e Zoe Saldana. Queste due persone hanno due figlie e il padre però è bipolare. È bipolare e quindi per molti versi la gestione di tutta la famiglia, dell'economia familiare, ricade sulla testa della moglie. Mm-hmm. Che tra l'altro a un certo punto del film parte per un master in business administration alla Columbia University e quindi deve lasciare a Boston le due figlie con questo padre che non sarebbe tutto sommato pronto per gestire una situazione di gestione familiare come questa. Sì, sì, sì. Francesco, ci sono alcuni elementi che mi hanno fatto apprezzare in modo particolare questo film. Intanto una bella prova attoriale. Sì. Poi sicuramente il fatto che la storia sia autobiografica, e questo si nota in molti particolari della sceneggiatura, e questo chiaramente la rende più vicina allo spettatore, più godibile, più credibile. E poi l'aspetto centrale dei sentimenti, messi alla prova da un disturbo mentale di uno dei suoi elementi, il padre delle due figlie e il compagno della protagonista. Insomma, come sono messi alla prova i sentimenti e come sono di grande aiuto anche per il superamento di prove difficili. Il film come da titolo è molto tenero, il film. Sì. E la malattia, lui è un maniaco depressivo, diciamo. La malattia è trattata con l'importanza che gli si deve dare, ma con dolcezza. Sì, esatto. E questo viene fuori dal film, è anche molto divertente, nel senso che i rapporti tra questo padre matto ma giocherellone ma irresponsabile ma affettuosissimo, lo si vede nel film, davvero che il film fa piangere, fa ridere, è trattato con molta dolcezza, infatti. Sì, c'è molto anche un tocco, si sente molto il tocco femminile e anche di una figlia affettuosa rispetto alla... Il tocco femminile è il tocco esatto di qualcuno che ha vissuto quella storia. Sì. Francesco, come avete incontrato questo film e come avete deciso poi la distribuzione? Guarda, lo abbiamo visto, io e la mia socia, l'abbiamo visto al Festival di Sundance l'anno scorso. Siamo andati a vedere il film perché siamo amici di Zoe Saldana, siamo amici di Zoe e di suo marito, quindi sono andati ospiti loro. E ci siamo immediatamente innamorati del film. È stata una bellissima proiezione quella di Sundance l'anno scorso, perché la sala alla fine è stato un applauso enorme, veramente tutti entusiasti e con i lucciconi agli occhi, e quindi abbiamo subito trattato il film con i produttori e abbiamo cercato di chiuderlo per l'Italia. Poi abbiamo un po' ritardato la distribuzione perché il film ci ha messo tanto a organizzare l'uscita americana del film, che esce in contemporanea con noi in questi giorni con la Sony, e quindi adesso siamo pronti per farlo vedere nelle sale italiane. Senti, che tipo di distribuzione avete scelto per questo titolo? Come spesso con i nostri titoli, noi facciamo cinema specialmente d'autore, presente specialmente nelle grandi città, e quindi saremo nelle città principali italiane con una settantina di copie. E speriamo che la gente, anche con questo caldo estivo, vada al cinema a vedere questo film, che in effetti è molto molto bello. Abbiamo avuto delle bellissime recensioni, unanimi tutti i giornali italiani, e quindi io penso che possa piacere e spero che la gente veramente vada al cinema a vederlo. Bene, Francesco, ci dai riferimenti internet per saperne di più sul film? I riferimenti internet, scusami, quali sarebbero? Scusami, della vostra della Good Films, probabilmente, per saperne di più anche sulla distribuzione. Allora, il film è Teneramente Folle. Noi siamo presenti su Facebook come Good Films, quindi chi vuole chiederci amicizia, noi siamo lì, e poi su internet siamo www.goodfilms.it. Benissimo. Francesco, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille, arrivederci. Ciao a tutti. Francesco Melzi Deril di Good Films sulla distribuzione del film Teneramente Folle, in uscita in sala oggi giovedì 18 giugno. Dovremmo avere un ultimo collegamento. Ecco noi Davide Desiderio, direttore della 7ª edizione del Festival del Documentario d'Abruzzo, il premio Emilio Lopez, a Pescara dal 24 giugno al 5 luglio. Davide, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, 7 edizioni, come si caratterizza questa, Davide? Allora, ti premetto che è un festival molto particolare. Per chi non lo conoscesse, è uno dei pochi esempi di diffusione del cinema del reale, che è una forma di documentario ancora più immerso nella realtà quotidiana, quindi ancora più di attualità in questi tempi che sono sempre meno raccontati dal cinema di finzione, e quindi diciamo cerchiamo di dare, soprattutto in questa edizione, ancora più spazio a delle forme comunicative dirette rispetto all'attualità. Sì. Oh, quante sono le opere che presenterete quest'anno? Allora, ti dico che abbiamo avuto un picco di arrivi, quest'anno siamo intorno ai 120, è stata una selezione molto dura, perché devo dire molto materiale, soprattutto essendo un premio internazionale, soprattutto dall'estero, dall'oriente, ci ha colpito in maniera positiva. Quest'anno daremo 10 documentari nel panorama italiano, nella sezione italiana, 6 documentari nel panorama internazionale che si chiama Visti da Vicino, e daremo per la concomitanza della questione Expo 3 cortometraggi a tema, diciamo, a tema cibo, a tema food, ma non solo, si scoprirà per chi li verrà a vedere che saranno delle piacevoli sorprese. Ci sono dei temi più ricorrenti? quest'anno lo posso dire senza dubbio che forse il tema che maggiormente è stato presente nelle nostre, sempre parlo di preselezione e poi anche successivamente nella selezione finale, è stata la questione del lavoro, sia inteso come nuove forme di lavoro, sia inteso come mancanza di lavoro, sia inteso come diciamo il lavoro fatto all'estero. Quindi anche abbiamo degli excursus di giovani filmmaker, giovani cineasti in tutta Europa e anche nel mondo, quindi avremo diverse opere che si occuperanno anche dell'evoluzione del lavoro, sempre filtrati dagli occhi della telecamera. Senti, ci saranno anche gli ospiti previsti, gli autori? Sì, allora molti autori sono contenti di tornare, alcuni sono presenti per la prima volta, abbiamo dei nomi che non potrebbero non dire niente, ma che gli inglesi potrebbero definire next star, cioè persone che da qui a 3-4 anni sentiremo parlare anche a livello, diciamo, di mainstream. E posso dire che siamo adesso proprio limando l'ultima giornata intorno a un fuori programma, che la presenza dell'ultimo lavoro di Paolo Pisanelli, uno dei più grandi documentaristi italiani, che si occuperà dell'Ilva di Taranto, o perlomeno si occuperà di un aspetto legato alla questione dell'Ilva di Taranto, e faremo un evento fuori programma con rappresentanti anche dei comitati contro le trivellazioni, comitato Nombrina, sulle discariche di bus. Insomma, sarà domenica, l'ultimo giorno sarà dedicato soprattutto all'impatto ambientale e al lavoro. Senti, com'è la risposta del territorio? Il festival è a Pescara, ma insomma più in generale del territorio abruzzese a questo aspetto, questo settore del cinema documentario? Allora, devo dire che mi assumo responsabilità di quello che dico, ma è ancora visto come un alieno, ovvero credo che fondamentalmente l'impatto sia buono, è proprio l'impatto stesso il problema, cioè comunque sia molto spesso si capita nel festival senza capire bene cosa c'è. E si rimane sorpresi, si rimane positivamente sorpresi, perché uno dei commenti che sento nelle edizioni passate è: ah, non avevo capito che insomma che una cosa è così diversa da quello che vado a vedere di solito in sala. E questa è una cosa che mi inorgoglisce, ma devo dire anche mi spaventa un pochino. Senti, ci dai tutti gli estremi per saperne di più sulla programmazione? Certo, allora c'è un sito ufficiale dell'associazione, perché devo ricordare che l'associazione che organizza questo festival è l'ACMA, l'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese. Il sito è www.webacma.org, e c'è anche, se cercate su Google, Festival del Documentario d'Abruzzo, tra i primi posti delle cose che potete trovare. C'è l'evento Facebook, aggiornato quotidianamente anche più volte al giorno, ogni volta gli stessi autori possono presentare il loro materiale in preview, con trailer, interviste varie. E poi insomma, se qualcuno ha bisogno, io sono Davide Desiderio e sui siti sono tutti i miei riferimenti. Benissimo. Sono anche, diciamo, una sorta di info point vivente. Davide, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi e buon lavoro. Ciao. Davide Desiderio, direttore della 7ª edizione del Festival del Documentario d'Abruzzo, premio Emilio Lopez, Pescara, dal 24 giugno al 5 luglio. E con questo chiudiamo l'appuntamento settimanale con il cinema di Visionari. Si torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Poi potete riascoltare anche le puntate in podcast, che vengono pubblicate sia sulla pagina del sito della radio, che alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.